noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati, di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Aiuto, aiuto, vero Thomas Villa? Il coro, aiuto, aiuto, mi sembra. Coro dedicato a Nagatomo. La rincorsa. Si ferma, spiazza Perilli, passa l'Inter, 5-4, però il Pordenone torna a casa a testa altissima. State bravi ragazzi, ho detto solo loro che è finito il tempo della partita, ma non siamo usciti vinti da questa partita. Sono stati bravi, più di questo non potevo e non potevamo chiedere a questi ragazzi. Portare l'Inter ai rigori e vincere la Coppa Italia per noi. Porteremo il No, per l'amor di Dio, il passaggio del turno è stato faticosissimo, il Pordenone probabilmente da ultimo si sarebbe anche meritato, perché poi quando si arriva a questi punti qui, 90 volte su 100 va in questa maniera, e anche dentro i calci di rigore, soprattutto Padelli, anche quelli che l'hanno battuto, insomma, diventa un rigore molto più pesante in questa condizione qui, contro un avversario dopo una partita così, per cui nonostante non abbia fatto una partita bellissima, siamo costretti a rifargli i complimenti a questi calciatori, perché se li merita. Allora, buongiorno a tutti, Giorgio Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronetti in regia. Credo che anche la loro serata sia andata come la mia e quella di molti italiani, cioè metti lì la partita, ti mangi qualcosa e dici vabbè, vediamo un po' com'è, poi accendi come giocano bene questi, ah guarda lì, ah però siamo finiti tutti a saltare sul divano, in piedi sul divano, come dice il nostro amico Guido Meda, a fare il tifo per il Pordenone. Così andà anche la tua, Pardo. Sì, beh, è stata una serata. Io ero a Torino per una presentazione del romanzo, io poi ero fuori, però poi mi sono collegato verso il secondo supplementare e devo dire, insomma, ragazzi, che dobbiamo discutere? È stata una grande pagina del calcio, della capacità del calcio di emozionarci, di non dico commuoverci, ma quasi. E il Pordenone ha fatto una partita incredibile e penso che abbiamo un grande ospite al telefono. Eh sì, l'artefice di questo, l'architetto di questo progetto, cioè mister Leonardo Colucci, che abbiamo sentito anche prima nella copertina. Ciao mister, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. No, complimenti a te, no, per il Pordenone. Scusa, complimenti per il partitone, non per la trasmissione. Sì, quello vabbè, quello va bene, però come ha detto ieri i ragazzi, di alzare la testa, c'erano tanti che piangevano di alzare la testa, torniamo nel mondo reale, quello ci appartiene, ecco. Sì, però 14 rigori, mister, per permettere alla prima in classifica di Serie A di passare il turno, ma non è tanto quello il punto. Avete giocato, secondo me, una partita meravigliosa, ma proprio sul piano calcistico, quindi non sono complimenti di circostanza, credo che molti la pensino così. Sai, il bello di questa professione, adesso ne parlo da pseudo allenatore, no? Non che da ex giocatore. Che si vive anche le soddisfazioni, no? E quindi il bello di aver messo in difficoltà, ma con grande umiltà, una squadra come l'Inter, no? Oggi mi diceva un mio amico che l'Inter erano 9 anni che non siglasse un gol in Coppa Italia in casa. Ma poi c'è anche dell'altro, no? Ieri a un certo punto, nei 3 cambi che ha fatto il mister Spalletti, sono entrati 250 milioni di euro in campo. Nei miei 3 cambi sono entrate 250 mila lire delle vecchie lire, no? E quindi è là che c'è poesia, no? È là che c'è il romanticismo di questo sport, no? Sono entrati 3 giocatori a livello mondiale e i ragazzi sono stati bravi a portarla fino ai rigori, perché poi alla fine l'avete visto, cioè, abbiamo avuto anche delle ripartenze. Come no? Il discorso delle Lega Pro Serie A è anche la cilindrata che fa la differenza. Noi attraverso l'orgoglio, come ho detto i ragazzi, la determinazione, l'ardore, la passione che un giocatore deve avere sempre, un giocatore che gioca in Serie A, un giocatore che gioca in terza categoria, sono ingredienti fondamentali per uno che fa sport dove c'è competizione. Certo, ma il senso dello sport. Dai, come l'avevi preparata e ti aspettavi di più dall'Inter? Ti aspettavi questo tipo di formazione? E appunto come avevate preparato la partita? Perché insomma battere l'Inter ad oggi c'è riuscito solo il Norimberga, no? In precampionato non c'è riuscita né la Juve né il Napoli né la Roma, però insomma voi avete messo a nudo delle difficoltà, dei difetti credo soprattutto delle seconde linee dell'Inter. Sì, l'abbiamo preparata lavorando sempre sui nostri principi, perché se vai a San Siro contro l'Inter e vai a fare le barricate prende dai 5 ai 7 gol. E allora senza snaturare il nostro pensiero, quello che è una filosofia, no? Senza passare per presuntuosi, di giocare, di palleggiare nei momenti di difficoltà, recuperare palleggiando, no? E non buttare la palla alla carlona, come si suol dire, la vive il parroco. Poi è logico che quando c'è da buttare la palla la butti anche fuori e ti organizzi, ma lo fanno le squadre mondiali e lo fa anche il Pordenone. Però era quello, che poi non è un segreto, quello di giocare con grande umiltà e di fare una buona fase di non possesso, perché dico sempre ai ragazzi che se ci difendiamo bene attacchiamo meglio. E poi è stato quello. Poi sai, quando sento dire le seconde linee, Eder mi risulta che è un nazionale, Gagliardini è un nazionale, Skriniar è un giocatore importante nazionale, Ranocchia è uno dei giocatori che da anni che gioca in Serie A, Cancelo, giocatori diciamo forti. Poi è logico che nell'Inter ad oggi un po' di questi sono seconde linee, ma farebbero i titolari in diverse squadre. Senti, ma che ti ha detto Spalletti? Ma il mister a fine partita mi ha detto che meritavamo noi di passare. Però l'ha detto anche pubblicamente. Sì, ma questo è da testimoniare la lealtà, la correttezza per quanto mi riguarda di un grande allenatore, di un uomo. Poi il mister lo conosco ai tempi di quando allenava il Venezia, l'Udinese, giocando, avendoci giocato contro, quindi e quindi sono parole non di circostanza. Lei magari non lo può dire, ma è oggettivo, cioè voglio dire, per quello che ho visto io la prestazione, perché appunto l'elemento più importante della partita ieri, visto dal punto di vista del Pordenone, secondo me è proprio nel fatto che non solo si è pareggiato 0-0 e si è dato i calci di rigore, ma che si è giocato una partita senza veramente snaturare la propria idea. Cioè, non è stato uno 0-0 fortunoso con 15 palle gol a una, è stato uno 0-0 nel quale le occasioni ce l'hanno avuto tutte le squadre, e il Pordenone ha rischiato a un certo punto di prendere gol in contropiede sullo 0, cioè, quindi sì. C'è un palo di San Siro che è ancora rotto, dobbiamo cambiare la porta. Questo è veramente qualcosa che, di rendo conto, è intangibile. Immagino che oggi sia stato anche un risveglio di con dei sentimenti misti, no? Di delusione, perché comunque perdere rigori fa male. Però io credo che, ma lo sapete già, che dobbiate essere fieri di quello che avete fatto, perché veramente, a parte che Pordenone esce in maniera clamorosa da questa settimana, perché prima l'abbiamo celebrata per il lavoro sui social network, quando ho sentito il presidente, poi c'è stata questa partita. Ecco, ieri il rischio era che dopo giorni nei quali si era incensato, diciamo, tutto l'aspetto comunicazione del Pordenone, ci fosse una debacle sul campo, invece andrà benissimo, per cui mai come stavolta è una sconfitta ma è una vittoria. Sì, no, è vero, infatti ho detto ai ragazzi che non siamo usciti vinti, è solo finito il tempo ieri, è solo finito il tempo di una partita, perché i ragazzi hanno dimostrato che comunque tanti di loro, perché no, possono arrivare, che io continuo nel quotidiano a dire loro che si può arrivare attraverso il lavoro, partendo, sono un testimone oculare presente proprio, sono partito dalla promozione, ho fatto 118 partite in interregionale, poi sono arrivato a giocare in Serie A. Mi sono rotto un ginocchio a 15 anni e nonostante il ginocchio rotto abbiamo sfatato di quelli che non hanno fatto carriere perché si erano infortunati. Solo perché passi attraverso il lavoro quotidiano con una forte determinazione, perché no, ci vuole. Guarda, mister, chioso io. Ieri sera molti dei tuoi, insomma, tu compreso, hanno dimostrato di avere le palle di essere ben allenati. Quindi giriamola così, chiudiamola così e salutiamoci così. Grazie. No, grazie a voi, grazie, un abbraccio, mister. Buon lavoro. Grazie. A Leonardo Corucci, il mister del momento, quello per cui l'Italia ha fatto il tifo ieri. Ciao Pierluigi, sentiamo domani. Sì, ciao amico mio, ciao. Molto presto. Allora, adesso il traffico, dopo Keep in Touch, state con noi perché è tutto, ma proprio tutto sull'affair del momento, quella storia di Donnarumma che sta facendo imbestialire tutto il popolo del Milan e non solo. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. Convocati. Ma io sono contentissimo e orgoglioso di essere al Milan. E sono nato e cresciuto qui e nella mia testa non ci sono mai avuti dubbi. E mi dispiace solo per i tifosi che si sono sentiti traditi, ma Non c'era questa mia volontà e non c'è mai, nella mia testa non c'è mai stato questo, quindi niente, sono molto, molto orgoglioso, mi dispiace solo per i tifosi e li ringrazio anche in questi due anni che sono stato qui di avermi sempre sostenuto e niente, sono orgogliosissimo di essere qua al Milan. Ringrazio i tifosi per l'accoglienza e per il calore che mi hanno fatto sentire sin da subito. E sinceramente non me l'aspettavo, perché non me l'aspettavo, ma sono molto contento di come mi hanno accolto e posso solo dire che io darò sempre tutto per questa maglia. Dichiarazioni estive post firma contrattuale di Gigio Donnarumma evidentemente estorte, perché avrà avuto una pistola puntata alla tempia o sarà stato manipolato, o sarà stato drogato o fatto ubriacare apposta per fare queste dichiarazioni. Potremmo chiederlo a Minoraiola, magari potrebbe confermare. Intanto saluto Marco Verinazzo, che ha appena scritto fresco fresco sul suo blog Calcio e Business, sito Sole 24 Ore, tutti retroscena di questa pelosa vicenda. Saluto anche l'avvocato Claudio Pasqualin, come sapete tutti, decano dei nostri procuratori. Buongiorno. Che ricambia cordialmente. Buongiorno, saluti. Avvocato. Allora, partiamo dalle ultime, così inquadriamo bene i dettagli della questione. Marco, cosa hai scritto? Beh, ciao Carlo, questa ciao. È una vicenda, diciamo, molto complessa e scivolosa dal finale in qualche modo già scritto. Così come invece non è stata scritta invece questa clausola rescissoria, perché come sai uno degli aspetti essenziali di questa vicenda era appunto il fatto che questa clausola non sarebbe stata depositata in Lega. In realtà appunto molto semplicemente non è stata depositata, perché al momento in cui è stato scritto e sottoscritto soprattutto l'accordo l'11 luglio scorso tra il Milan e la famiglia Donnarumma, in quel momento era presente e l'avvocato Rigo era uscito proprio perché era in contrasto in quel momento con le indicazioni che venivano dalla famiglia e la volontà delle famiglie. Bene, quella famosa clausola nel contratto non c'era perché c'era un accordo di non inserirla più, nonostante il fatto che Raiola e l'avvocato Rigo avessero lavorato tanto nelle precedenti settimane per inserire invece questa clausola. Perché non è stata inserita? Qui nasce il nodo giuridico, nel senso che secondo il Milan, secondo le testimonianze che è stato possibile raccogliere, semplicemente hanno deciso all'ultimo momento famiglia e Donnarumma e Milan di non inserirla. Secondo quello che invece dopo tre mesi l'avvocato Rico ha scritto ai legali del Milan e appunto alla società, invece questa clausola non sarebbe stata inserita. Per quale motivo? Non tanto per una violenza, che è la cosa di cui si è parlato in questi giorni, che evoca un certo articolo del Codice Civile, il 1435 per i puristi del diritto, ma evoca un'altra fattispecie che è in qualche modo più grave, che è il 1439, cioè il dolo. In pratica il Milan avrebbe raggirato di Donnarumma e non avrebbe inserito questa clausola nel contratto. Ora capisci che sono tutte fattispecie molto molto gravi, questa è una vicenda molto complicata. Normalmente prima di firmare un contratto, fosse anche per l'acquisto di un monolocale, il contratto si legge. Esattamente, quindi la questione è molto difficile da inquadrare, fermo restando che dopo 3 mesi evidentemente la verità è che Raiola è tornato al centro dell'impero Donnarumma. Sì. Evidentemente il fatto che non ci sia una clausola accessoria rende più difficile le trattative, perché il coltello alla parte del manico, sempre giuridicamente parlando, c'è il Milan a questo punto. Uh-huh. E di conseguenza Raiola sta cercando di forzare la mano laddove c'è una convergenza però finale degli interessi del certo, club e della di vendere il giocatore, per cui dicevo una storia complessa, ma dal finale in qualche modo già. Sì, sono d'accordo, perché ci sono due aspetti, quello giuridico, su cui sto per chiedere un commento all'avvocato Pasqualina, da avvocato e da procuratore. Sì. E quello del senso di tutto, cioè si sta tirando la corda in maniera anche molto forzata, a me sembra, dal punto di vista giuridico, proprio per arrivare a un'unione, una confluenza. Il Milan vuole vendere, Raiola vuole portarlo via perché guadagna un sacco di soldi, e quindi si arriverà a un punto. Ma dal punto di vista giuridico, come valuta questa vicenda pazzesca? Ma che di giuridico, qui c'è solo la firma di una persona che aveva la capacità di apporla, sia pur da poco era già maggiorenne, mi pare, no? Sì. Oltre che vaccinato. Sì, sì. Quindi con buona pace del 1435 codice civile e di quant'altri articoli si vogliano citare, c'è una firma ed è assolutamente incredibile che si possa davvero parlare di violenze morali avvenute nella sede importante di un'importante società di calcio, tra l'altro messa in atto in punto d'accusa da due persone come Mirabelli e Fassone, che non ha, al di là dell'aspetto, insomma, non sembrano proprio di quelli che di quelli che sia pur solo morali. No, che proprio bisognerebbe provarla, no? Bisognerebbe provare sia la violenza morale che il dolo, perché insomma l'onere della prova è da quella parte di là. Assolutamente sì, insomma mi sembra dal punto di vista giuridico una tesi veramente tirata bizzarra, oltre sì, come minimo, insomma una strategia veramente fragilissima se l'obiettivo è quello di andarsene via, no? Certo che anche la pazienza dei tifosi, che già lo avevano tra virgolette perdonato all'epoca, potrebbe avere un limite. Ah, sicuro. Lui può affidare legittimamente sulla sua immensa caratura tecnica e quindi sul fatto di essere veramente bravo come portiere, e quindi di affidare che la palla non gli scivoli via o che la respinta non vada sui piedi dell'attaccante che poi fa il tappino, perché altrimenti hai ma lei è d'accordo, avvocato, lei è d'accordo con quanto stiamo dicendo io e Berinazzo, cioè il disegno è diverso, cioè se questa forza, chiara forzatura giuridica per arrivare a un incontro, no? Donnarumma sì, va via, ma il Milan vuole i suoi soldi, sì, e la controparte, che poi sia Real Madrid, la Juventus o il Manchester City di turno, butto lì dei nomi neanche tanto a caso, ecco. Sì, ma c'è modo e modo, dai, cioè io non credo che si debba a tutti i costi arrivare a queste situazioni che sono veramente ai limiti della correttezza, diciamo così, insomma, torno a dire che c'è modo e modo, e l'impressione è della serie accusa qualche cosa resterà, quindi attacca alla fine qualcosa la spiamo via, per così dire, anche perché l'interlocutore non è una proprietà solida, ben identificata, cioè se fosse stato Berlusconi io non credo che si sarebbe azzardato Raiola a accusare i suoi mandatari di Berlusconi, intendo Galliani, Praida, chi c'era all'epoca, di violenze morali. Ma stiamo scherzando, cioè, secondo me approfittano anche, come dire, non si può dire incertezza societaria, no? Ma tutti noi leggiamo di fondi che sarebbero proprietari avendo prestato i prestiti a un tasso peraltro che sembra quasi da usura. Lo è, secondo la legge italiana. Capisce, voglio dire, è una situazione veramente paradossale, incredibile, e il fatto che il ragazzo comunque, avendo mandato, mi sembra di aver letto, una mail direttamente, personalmente, comunque avali questa strampalata strategia, mi sembra molto grave. Sì, Sì, grazie avvocato. Grazie, grazie mille. Grazie del consulto, ci mandi la parcella, la mandi a Berinazzo che sarà pesantissima. La mandi Sole 24 ore Berinazzo, tanto in solido, però Berinazzo per primo, io in caso di insolvenza, ma questa la escludo perché Berinazzo è ricchissimo con tutti i libri che scrive di successo, no? Beh, sì, pensi chiaramente, tu? Insomma, ci posso tu. Permettermi, ci penso io, non ti preoccupare. Senti, ma qual è il prossimo passo? No, perché mi viene il sospetto che la circonvenzione di incapace in questa vicenda possa essere dietro l'angolo. No, cioè, io credo che... Forse potrebbe essere questa la fattispecie, circonvenzione di incapace. Come fai a mandare una mail di quel tipo? Sì, ora io, al di là dei dati fattuali di mail inviati, insomma, si è letto di tutto, insomma, sarei un po' a quello che siamo riusciti, insomma, in qualche modo a ricostruire con una ragionevole certezza, perché... C'è innanzitutto un'operazione, come dire, mediatica molto strana, perché sembra quasi controproducente, cioè sembra che si stia facendo di tutto per mettere Donnarumma, diciamo, ai margini del progetto, certo. Milan, nonostante il Milan per esempio abbia da poco twittato che è un patrimonio di Donnarumma del club, e ci mancherebbe altro, perché credo che insomma, è un assegno circolare che sta per incassare il club e che dovrà incassarlo, peraltro. Diciamo che nello scenario di una cessione, che mi sembra a questo punto comune volontà delle parti, bisognerà capire le modalità e chi comprerà Donnarumma, ma diciamo che sulle tempistiche possiamo dire questo, che Milan avrà bisogno, perché per la stessa missione di Fassone, di un'operazione importante di cessione, appunto, per rimpinguare un po' le casse. Questa operazione, per farla sul bilancio di quest'anno, per intenderci, non c'è bisogno di farla a gennaio. L'ultima cosa che ti volevo chiedere, appunto, secondo te l'ipotesi più plausibile è una cessione a gennaio o una giugno, dato per scontato più o meno che la cessione avverrà? Guarda, allora lo sapremo credo nei prossimi giorni, nel senso che se la questione scema di interesse, nel senso che le parti trovano un accordo, se ne potrà parlare anche a giugno, perché basta fare la cessione prima del 30 giugno e certo. Va direttamente su questo bilancio, e quindi non c'è fretta. Se vedremo, come dire, esacerbare gli animi attraverso altre dichiarazioni, attraverso altre azioni legali, perché di questo stiamo poi parlando, a quel punto credo che tutto potrebbe lasciar presagire, appunto, che di voler accelerare l'operazione e farla già a gennaio. Però ecco, mi sembrerebbe un po' strano, forzato, insomma, sì. Un po' forzato. Insomma, l'operazione si può fare benissimo, ripeto, in estate, il mese del 30 giugno. Anche bisogna vedere a quale livello si alzano i toni. Insomma, se a un certo punto si va avanti così, difficile Donnarumma possa giocare ancora. Si diceva prima. Marco, ti ringrazio. Grazie per a te, Carlo, il a presto. Punto sulla vicenda Donnarumma 800240024. Ovviamente potete chiamare quando volete. No, io voglio essere, per concludere, prima della borsa, malizioso, sottolineando come il Real Madrid ha un problema portiere. Si è parlato molto di Donnarumma e di un accordo presunto possibile con il Real. Ha un problema portiere perché Bravo è infortunato ormai da tempo, e Casilla, che ora difende, non Casillas, ma Casilla, che difende la porta del Real, non pare un granché. Voglio essere malizioso, sono malizioso, ditemelo voi. 800240024, borsa. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Tra poco arriva Emiliano Mondonico e continuiamo a divertirci in questo pomeriggio di dicembre 13. Santa Lucia, auguri a tutte le Lucie. Alessandro, buongiorno. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Due cose veloci. Allora, volevo parlare con l'allenatore del Pordenone, però purtroppo è andato. Sì. Una delle poche partite che ha perso quest'anno, 2-1 in casa con il mio Padova. Voleva ricordarglielo, è abbastanza cattivo, sì. Non in spirito natalizio. Porta il Pordenone, 2 del Padova, abbiamo vinto 2-1. non meritata. Poi, altra cosa, sempre riguardo quel discorso lì, quindi il mio pensiero è sempre: l'allenatore conta l'80%, i giocatori il 20%. Io sono del, non lo so, non, lo so, a me sembra il contrario. Lo so che per te è il contrario, per me conta solo l'allenatore. Che l'allenatore del Pordenone chiami Mancini, Roberto Mancini, gli spieghi come si allena, che ha bisogno di ripetizioni il ragazzo, E per quanto riguarda Donnarumma invece non mi esprimo perché potrei essere molto cattivo. Spero per lui che non giochi mai in nazionale, perché l'altra volta erano uova, la prossima volta sono pietre. No, adesso no, ma no, dai, no, non si comporta in quella maniera. No, non ci si comporta in quella maniera. A 18 anni si può anche essere adulti, dei giovani adulti, e poi bisogna magari anche da giovani adulti ragionare su quello che ti fanno fare, perché questo è evidente, no? Fai così, fai cos'ha. Ora si tratta di molti soldi, di una quantità infinita di soldi, si tratta di una vetrina mediatica pazzesca, e quindi io posso anche capire, ma entro certi limiti. Io non condivido né le uova né le pietre, tantomeno. Spero giochi in nazionale, ma soprattutto spero diventi un grande portiere, perché al momento, allo stato dell'arte, è un'idea di grande portiere, non lo è ancora. Cioè non possiamo dire che Donnarumma è Neuer o Buffon o uno di questi qui. Potrebbe diventarlo. Fabio, buongiorno. Ciao, buongiorno, sono ciao. Fabio di Milano. Ciao. Senti, io sono un milanista da una vita, ho 66 anni. Sono stato in braccio a Nord negli anni 50, per cui ho sempre gioito e sofferto delle glorie del mio. Sul caso Donnarumma, devo dire, non si deve fidare di questi squali procuratori, perché fanno l'interesse proprio, pigliano un sacco di soldi. Io devo dire la verità, non... si sta bruciando lentamente, come immagine, eh? Poi tecnicamente bravo, anche se ancora 18 anni e deve scoppiare, deve esplodere come, come portiere, però stia attento, io è un avvertimento, è un consiglio che ti do da papà. No, no, questo insomma lo sappiamo tutti, poi i procuratori fanno i loro interessi, fanno le loro fortune, fanno spesso anche le fortune dei loro assistiti. A proposito di Rai, a chiedere al signor Barotelli o al signor Ibrahimovic, che è un'altra storia, un'altra roba, però è chiaro che insomma il gioco lo conoscono tutti, guadagna un sacco di soldi, o Pogba un sacco di soldi nel momento in cui lo porta da A a B, e su quello guadagna. Buongiorno mister Emiliano Mondonico. Buongiorno a tutti, che argomentazioni serie che avete. T'hai visto? Bene, sono proprio contento. Pensavo che parlaste sempre di situazioni futili, invece bravi, molto bene. No, ma noi sulla futilità siamo maestri, sul resto ci applichiamo, ma siamo scolaretti. Mi sembra che eravate seri. Senti, tanto chi ti ha fatto violenza morale quando hai firmato un contratto? Violenza morale? Guarda che io la maggior parte delle volte ho firmato il contratto in bianco. Mi ricordo quando sono andato in Serie A con la Fiorentina, che dopo si parlava che arrivava altre persone, poi invece mi hanno chiamato. Mi hanno detto che il contratto in essere era un po' troppo così caro, e che loro non potevano darmi quello che l'anno prima mi avevano scritto nel caso fosse andato in Serie A. A quel punto io ho preso il pezzo di carta, gli ho scritto Emiliano Mondonico e gli ho detto: per grazia di Dio in questo momento i soldi mi interessano poco, mettete quello che volete, la mia soddisfazione è allenare la Fiorentina in Serie A. Ed è sempre stato così, perché non sono mai stato uno che è andato a snocciolare chissà che cosa. Sì. Diciamo che quando capivo che uno mi voleva come allenatore, ma anche come giocatore, perché come giocatore anche lì, i soldi non sono mai stati un perché della mia vita, forse, avendo avuto io una trattoria da bambino, è chiaro, mangiare e bere l'avevo a prescindere di quello che era il mio contratto. Per il salame i soldi c'erano, non è che stiamo lì. No, i soldi non lo so, perché non ti nascondo che, e questo è una roba che non ho mai detto a nessuno, che quando c'erano le giostre, le autopiste, il calciculo e compagnia bella al paese, diciamo che io andavo lì al bar, lì all'osteria, davo un po' da bere, poi aprivo il cassetto, beccavo 500 lire, le mettevo in tasca e andavo sulle giostre. non so se è rubare, però dopo mi dispiaceva, ecco. Diciamo che dopo mi dispiaceva, però l'anno dopo lo facevo ancora. Eh sì, ci mancherebbe, a cresta sulla spesa l'abbiamo fatta tutti, dai, da bambini, dai, non facciamo 500, i santi. 500 lire, 500 lire faceva, costava 50 lire il giro in autopista, facevo 10 giri Ma ci mancherebbe altro, non facciamo i santi perché la cresta sulla spesa l'abbiamo fatto tutti, noi non siamo certo delle verginelle. Mi tiri su di morale, Emiliano, amico mio. Solo io, invece, per anche carità, tu sei un ladro. Bene, sì, lo confesso, venitemi a arrestare. Senti, mister, prima abbiamo sentito Colucci. Avrai visto ieri sera. Beh, tu hai. Allora, Mondonico ha vinto il festival di San Siro. Sì, ciao. Di Sanremo una volta a San Siro, vincendo con il suo bellissimo Novara. E disse questa cosa. È come per aver vinto il festival di Sanremo. Colucci ieri ci è andato vicino. Dopo due partite mi ha mandato via. Lo so, me lo ricordo. Così, infatti, così, tutte le volte te lo ricordo, così ti faccio incazzare. E mi hanno detto così impari. Dimmi, io ieri sera. Sai cosa ha detto prima? Sai cosa ci ha detto prima Colucci? Ha detto. Quando ho guardato i cambi che faceva l'Inter, quindi entra Perisic, Icardi, Vecino, Brozovic, allora sono entrati 250 milioni di euro. Ho fatto i miei cambi e sono entrate in campo 250 mila delle vecchie lire. Però è entrata in campo la voglia. Beh, ricordati che non sempre vincono le squadre più forti, ma spesso la squadra che ha più voglia. E ieri chiaramente questi ragazzi avevano una voglia pazzesca. Dall'altra parte c'era un po' di menefreghismo, tanto noi chissà chi siamo. E il calcio è bello per questo. Cos'è la bellezza del calcio? Ah, spiegamelo tu. Questo. Guarda, non farmi arrabbiare, Emiliano. Dimmi, perché ti No, ma perché quando mi parlano di bellezza del calcio, volete vedere il circo? Andate al circo. Il circo equestre è là, il cinema è là, il teatro è là, lo sport è un'altra roba. Oh, biondo alto un attimo. Perché adesso mi fai un po' uscire dalle righe. La bellezza del calcio. Cioè, tu puoi dirmi tutto quello che vuole, il circo. La bellezza del calcio è per me vedere la fase difensiva della Juventus. Cos'è? La fase difensiva della Juventus, per me. Cioè, guarda che le miglior difese del campionato in questo momento si chiamano Inter, Roma e Napoli. La Juventus ha il miglior attacco. Perciò mi sembri che sei un po' arretrato. Sei andato sull'autopista? No, ho bocciato un po' di volte. Emiliano, ti chiedo un secondo, traffico, poi ti devo chiedere ancora una cosa su Sarri, Napoli e questione di turnover. Una puntata davvero eccitante. Piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Convocati. Sacco di gente imbestialita come Emiliano Mondonico, perché c'è chi mi scrive la bellezza del calcio è il Napoli, il Manchester City, il resto è noia e questa roba qui, oppure perché osannate Sarri. Insomma, c'è la gente cui piace solo il tiki-taka. A me e a Emiliano piace un'altra cosa, ma un giorno lo faccio venire qui, facciamo una puntata intera e litighiamo con tutti. Io sono su pronto. Catenaccio e contropiede. Bravo Emiliano. Catenaccio e contropiede. Sì, il futuro del calcio è catenaccio e contropiede. E vinceremo i mondiali quando ci convinceremo di andare a giocare con catenaccio molto. Ma che la Svezia, dai, perdi con la Svezia che viene a fare catenaccio contro di noi. È un gran bel catenaccio. Maestri. Un gran bel catenaccio. Ma cavoli, ma siamo matti, ma tiro su. No, no, il pullman davanti alla porta, metto il muro di Berlino. Mister, dimmi una cosa, ma adesso turnover è una parola ormai italiana, no, più che straniera, è ormai una parola italiana. Qualche volta ci telefono gli amici, anche a te, gli amici della Radio di Napoli, dicono: ma chi deve comprare il Napoli per crescere? Puoi comprarne altri 15 di giocatori. Il problema è che se poi non li coinvolgi nella squadra, nel progetto, puoi anche allungare la panchina fino al golfo fino a Posillipo, Sì, ieri sera sono stato giù a Napoli in una trasmissione con Marino Bartoletti e c'è molto molto molto malumore attorno a questo Napoli. La cosa mi ha stupito, questo è secondo in classifica, sta facendo un campionato esaltante in questo momento. chiaramente Sarri viene un po' messo sotto processo. È chiaro che mancano un po' la fascia sinistra, manca Gullan, manca Insigne, e io ieri ho proposto di schierare Mertens su quella fascia e Zielinski in mezzo al campo a fare il falso 9. Anche perché così Hamsik ritorna ad avere attorno della gente che calcisticamente parla come lui, e perciò riescono a ridare al Napoli quello che è la forza assoluta di questa squadra, cioè il gioco sugli esterni, il gioco sulle fasce. Quando si parla di falso 9 è perché chiaramente il centravanti fa specchio per le allodole e sugli esterni sono cavoli degli avversari. Purtroppo in questo momento manca la fascia sinistra, che è stata la fascia sulla quale il Napoli costruiva le sue ripartenze, ed è chiaro che si trovano delle difficoltà con dei rischi. Allora mettiamolo in mezzo, mettiamo la Martens che ha sempre giocato in quella zona del campo, lui e Insigne si alternavano e davano chiaramente un grandissimo contributo. E perciò giocava in un'altra maniera, su questo sono d'accordo, mi sembra evidente. Perciò ti dico, secondo me il Napoli sta facendo il campionato giusto, un campionato dove queste 4-5 squadre lotteranno sino alla fine. Ieri si parlava di bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto ancora in questa trasmissione, e io ho detto attenzione che ci sono delle squadre in questo momento che hanno il bicchiere pieno, e tu chiaramente sai chi sono o chi lo dicono, però non hanno ancora capito che il bicchiere è pieno, però il vino sta di tappo e bisogna stare molto attenti, perché se sta di tappo come lo assaggi, come lo mandi giù, lo sputi fuori. Bravo, tutti sono rimasti stupiti, perché però io da vecchio oste, mio padre in questa osteria, sapesse quante volte tiravamo su il bottiglione e sapeva di tappo. Dopo sono nati i tappi di plastica. Sì, ma glieli lasciamo gli altri tappi di plastica. Io sono contrario. Era come bere la gazzosa. Dai, non si può bere una bottiglia con tappo di plastica. Di plastica, dai. Almeno adesso non so tu però mi sembra che sei molto vicino al mio istinto. Veramente. Scusa, domani dove sei? Dove vuoi che sia? Qua. Dove? A Milano, via Monterosa, Sole 24 vuoi, ore. Vuoi venire a mangiare pulente casera? Ma perché mi devi fare? Posso mandare Pardo? Sennò chi parla al microfono, Emiliano? Io sono incatenato. Mi slegano. Allora, facciamo la polentata. E c'è polenta e cotechino. Ti chiamo dopo, aspetta. Con i cacciatorini, polenta e cassolo e polenta e gorgonzola. Guarda, ti chiamo dopo, prendo un giorno di ferie se me lo danno. Pensaci, se ripenso. Anche Pardo, Pardo ti costa per mangiare polenta e cassolo. Pardo ti costa, è meglio fargli un vestito che dargli da mangiare a Pardo. Ma lì ti dirò che una volta posso anche spendere qualcosa in più nel mangiare. Va bene. Grazie Emiliano, ti abbraccio forte. Ciao a tutti quanti. Ci sentiamo dopo. Viva la pulente casera. Ciao. Che l'Augusto Staci, buongiorno. Anch'io mi sono per. Io la penso come un donico. È strano, è difficile pensarla. Pulente casera. Senti, facciamo così, facciamo una cosa strana, fammolo strano. Adesso introduciamo l'argomento, poi ci diamo appuntamento per domani e andiamo sul dettaglio. Questa storia dei corridori che hanno sempre l'asma, stavolta è toccato ancora più forte di tutti, e cioè il tour vincitore del Tour de France, positivo alla Vuelta per il Ventolin. Esatto. Quindi, che succede? In questo caso bisogna dire, così per spiegarlo in maniera con parole semplici, che Froome è andato nei pasticci non perché ha usato una sostanza proibita, perché il Ventolin e il clenbutenolo è assolutamente lecito, però ne ha abusato, quindi ne ha usato troppa, e per questo rischia di pagare, anzi probabilmente, se la legge pagherà, perché nella storia anche recente, sì, ce ne sono diversi di casi, Alessandro Petacchi, per dire, o Diego Ulissi, addirittura Alessandro Petacchi, il limite all'epoca era di 1200, lo trovarono a 1320 ed è andato un anno. Ulissi invece in realtà poi il limite era stato abbassato nel caso di Ulissi dalla WADA a 1000 nanogrammi millilitro e lui era andato a 1900. In questo caso quello di Froome è esattamente il doppio, quindi ne ha fatto veramente un uso smodato, perché per dare un'indicazione molto semplice, no? Si parla di ventolini, quindi si parla di puff, sì, quanti puff puoi fare. La posologia normale, così purtroppo ho imparato, perché quant'è? Un po' di pneumologo, ma è di 8 al giorno. Quello vuol per dire? Arrivare, per arrivare a 1000 bisognerebbe farne 16, insomma, vedete voi del consentito. Pier Augusto, senti, allora diamo appuntamento a tutti a domani, torniamo su questa vicenda che è abbastanza raccapricciante ma allo stesso tempo interessante. Adesso andiamo a chiudere, ragazzi. Giorgio Luca, ciao, nostro autore. Gianmarco Veronato, ciao, nostro regista. Sentiamo domani, ciao a tutti. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.